Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Signore e signori, Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Capisci un po' sta musica? Eccoci, ballando e camminando emotivamente. Energia in movimento. Baci, Lalla. Volevo salutare Francesca e dirle che la sposerò presto. Deluxe da Matera.

storia, domandati perché, ricerca nella memoria quello che fu di te. Ciao Gigi, vorrei dedicare Perché di te ho bisogno alla mia ragazza Chiara. Federico da Godiasco. Se tutto fosse strano, aria. Il cammino di Gigi D'Agostino. È come se tutto fosse strano, aria. Sulla mano. È come se tutto fosse strano, aria. Sulla mano. Per Gigi D'Agostino, aria. Per Gigi D'Agostino, sulla mano. Sulla mano. Per Gigi D'Agostino, aria. Per Gigi D'Agostino, sulla mano. Per Gigi D'Agostino, aria. Per Gigi D'Agostino. Sulle mani. A Gigio, ogni giorno cor tuo cammino se sbregamo. Scu da Roma. Area per Gigi D'Agostino, sulle mano. Area per Gigi D'Agostino. Se area. Se area. Fermamosi un momento. Parte lento violento. E vi... Se riparte maestro, cor teatro. Er Burattino, Gigi D'Agostino. Ciao Gigi, sono Giovanna LT. Alla faccia di chi dice che hai un carattere burbero e incazzoso, ti ho visto sorridere dalla console. Dolce e intrigante. Forse un po' infame, ma c'era tutto in quel sorriso. Ho visto gli occhi lucidi di chi ama il proprio lavoro e sacrifica la vita per la musica e per gli altri, nascondendo la stanchezza. Grazie Gigi. Vorrei fare una canzone da suonare con la chitarra per le strade alle persone. Vorrei fare una canzone per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone che trasmetta un ideale se le cose vanno male. Vorrei fare una canzone anche solo per cantare. ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. C'è la musica di Gigi D'Agostino. A volte è scontrosa, a volte è più dura, ma la vostra mente viaggia sicura. Gigi D'Agostino. Un altro modo di fare musica. Gabri da Darfo Boario Terme. Dedico questo brano a Fabio, il mio grande compagno di trasferte serali, musicali, targate Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Un poco sta cassa. Gennaio 2007, ore 22, officina emotiva con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale presso la discoteca Palladio, Trevignano Romano, Roma. We'll be right back. potete dire quello che volete a chi volete. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Questa musica mi fa venire i brividi. Fabio da Vicenza. Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni.

Voglio salutare Rosetta e dirle che le voglio molto bene. Walter. D'Agostino è lento, violento. Il cammino di Gigi D'Agostino. Non giochiamo. Lento, violento. Lento, violento. Lento, violento. El movimiento. Me. Ciao Gigi, sono Marco da Chivasso. Volevo dedicare l'Amour Toujours al mio amore Manuela di Nichelino e ai nostri due figli Nicolas e Gabriel. Non sono miei, ma è come se lo fossero. Grazie di tutto quello che mi dai, amore mio, e di aver dato un senso alla mia vita. Marco, 1982. Gigi, gridalo a tutti. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away. And I'll fly with you. Saluto Davide di Cervasca e Alessandra, che mi piace da morire. Incri 91. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi, il mio amore mi ha lasciata. Vorrei dedicargli lo sbaglio e fargli capire che non dobbiamo fermarci di fronte a dei problemi insensati. Ti amo, Albi. Tua Lì. Mi ha messo in vita, forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Chi lo fa, quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie. Chi lo sa, quando è che sbaglio, quando sono solo o con mia moglie. Chi lo sa, quando è che è meglio, sai perché? qualche canzone senza lo sbaglio. Ci sentiamo domani. Grazie.